falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Temo che molti di voi, soprattutto tra i più giovani, non conoscano il protagonista della storia di oggi. Ma invece molti di voi, anzi probabilmente tutti, conoscono il personaggio che Lino Banfi ha interpretato ispirandosi a lui su suggerimento dell'allenatore svedese Nils Lidholm. Il personaggio è il mitico Oronzo Kanà, è il protagonista di un cult movie, l'allenatore nel pallone. Allora, vabbè, con Lino, ovviamente, Lino ha fatto Oronzo Kanà, uno dei personaggi indimenticabili del cinema. Sì. Ma la cosa pazzesca che ho scoperto è che in realtà tu parlavi di calcio veramente, tipo con Lidholm. Sì. Perché voi prendevate l'aereo assieme, no? Spesso. Sì, intanto fu lui che mi dette l'idea, perché fa, Lino, prendevamo lo stesso aereo. Sì, l'idea di Oronzo Kanà te l'ha data Lidholm? No, sì, perché lui mi disse, tu somigli molto, quando io vedo te in televisione, a un grande allenatore, era molto comico. E chi era? Oronzo Pugliese. Dico, non ho sentito parlare, gli faceva cose, mi cominciò a raccontare le cose. E allora cominciai a fare l'occhietto, dico, questo sarebbe un bel film. Il calcio invece di Oronzo Pugliese mi farò chiamare in un altro modo. E pensai, Kanà, per un motivo, perché loro dissero, chiamiti Oronzo Lombardo, per esempio, che è il contrario di Pugliese. No, no, no, no, Kanà. E perché sto Kanà? Da dove ti esce? Mi disse il regista. Perché voglio che mia moglie si chiami nel film Mara, perché devo andare al Maracanã a Rio de Janeiro. Eh sì, e noi raccontiamo proprio la storia del personaggio che ha ispirato Lino Banfi su suggerimento di Lidholm, che si chiama Oronzo. Oronzo Pugliese, un calciatore, un allenatore che nasce il 5 aprile del 1910 a Turi. Turi è un villaggio agricolo, un grosso villaggio, adagiato nella Murgia, a metà strada tra Bari e Alberobello. Quindi, classica famiglia contadina, padre commerciante di mandorle, madre di stampo antico e un'origine umile che lui conserverà nei tratti caratteriali, schiettezza, sincerità, semplicità, ma no, è un'origine umile che da ragazzo ovviamente gli va stretta. E come tanti altri ragazzi della sua età, Oronzo vede nel calcio la via di fuga dall'ordinarietà di quell'Italia agricola chiusa, però non è un campione. La sua carriera si trascina proprio in quella provincia da cui avrebbe voluto evadere. Le maglie delle squadre che ha indossato si chiamano Gioia del Colle, Casa Massima, Benevento, Frosinone, Messina, ma negli anni in cui il Messina era nelle retrovie, Siracusa, contribuisce alla vittoria del girone C nel campionato 40-41 e la qualificazione alla finale del campionato siciliano del 44-45. Insomma, questo è il massimo del suo palmarès da calciatore. Cambia anche ruolo, non sfonda, però sudando su questi campetti sterrati ha modo di comprendere la psicologia del calciatore operaio. E poi c'è la sua arguzia contadina e una pragmaticità molto pronunciata che lo aiuta in tutto questo. Insomma, è una scuola di vita che l'avrebbe sorretto, l'avrebbe ispirato. È un impulsivo, focoso, ha una grande capacità di caricare i giocatori e il pubblico. Il figlio Matteo ricorda che questi tratti appartengono anche alla sua vita privata. Ma papà, come è stato descritto, era vulcanico, simpaticissimo. Anche in casa aveva naturalmente i valori familiari dell'uomo vero del sud, attaccatissimo alla famiglia d'origine e naturalmente anche a me e a mia sorella ha trasmesso questi valori molto positivi. E lui inizia la sua carriera da allenatore quando sta ancora giocando. Nel 39 Oronzo è seduto sulla panchina del Leonzio, associazione della città di Lentini. Non c'è ancora la TV, i calciatori vanno allo stadio in corriera e non sulle macchine con cui vanno oggi, non ci sono tatuaggi, tutto rimane tra le mura di questi edifici. E insomma, sono altri tempi, altri uomini. La prima retribuzione per il mister Oronzo Pugliese sono alcune ceste di arance. Come allenatore però non è male, è acerbo, però è sicuramente più portato alla panchina che al campo. E all'inizio anche lì ci si trova nel limbo: Siracusa, Messina, Benevento, Ligea, Barcellona, poi si varca lo stretto per allenare a Reggio Calabria la Regina, che c'entra la promozione dalla D alla C, quindi siamo sempre nelle retrovie. Nel 58-59 va a Siena e sfiora la promozione in Serie B, poi torna a Siracusa, poi torna a Siena e c'entra un quarto posto in Serie C. Insomma, sembra una vita di secondo piano. La svolta arriva nel 61-62, un campionato che apre la decade d'oro di Oronzo Pugliese. Lui è sulla panchina del Foggia, Serie C. A fine stagione porta il Foggia in Serie B e due anni dopo conquista la promozione in Serie A. Vince il Seminatore d'Oro, che è il premio che la Federazione Italiana del Calcio riserva al tecnico nuovo che si è distinto maggiormente nel corso della stagione agonistica. I nomi dei suoi colleghi in Serie A sono importanti: Eleni Herrera, Nereo Rocco, Nils Lidholm, Valcareggi. Pugliese dimostra che anche un tecnico di umili origini che arriva dalle panchine dilettantistiche può dire la sua e subito si mette in mostra per il suo tratto caratteristico, che è quello di essere molto focoso durante i match. Vieni, vieni, solo, solo, solo, solo, non ce la fanno più, solo, solo, scarto e vai. Tiro da là, tiro, la perdi. Ecco del vettore. Vai, via, via. No, Favalli, no, no, Favalli, Favalli. Sono afflosciato, un po' di ordine, guarda, un po' di ordine. Ah, che depurizione, non ce la dà. Miceli, vieni, che sei un alastra. A lui, a Maione, al calmo, a Maione, a Maione. L'ha ucciso, mannaggia, l'ha ucciso. Vittorio! Vittorio! Dove, stai arrivando qui, dove? Il Foggia del presidente Don Mimì Rosa Rosa, guidato da Pugliese, parte male, due sconfitte nelle prime due partite a Firenze e a San Siro con l'Inter, la panchina che traballa, e poi lui guida una riscossa, due vittorie e tre pareggi, anche grazie alle caratteristiche del suo calcio, ce lo spiega il figlio Matteo. Negli anni 60 vigeva il calcio all'italiana. Quindi la tattica di mio padre rispecchiava un attimo quello che era il calcio dell'epoca, grande attenzione a centrocampo. Il Foggia a quel tempo vantava un contropiedista d'eccellenza che era Vittorio Nocera, carissimo a tutti i tifosi foggiani, per cui riusciva concretamente ad ottenere dei risultati proprio sfruttando queste caratteristiche. Il falco e il gabbiano. Gennaio 65, il Foggia di Oronzo Pugliese chiude il girone d'andata con 6 sconfitte, 6 pareggi e 5 vittorie. Poi arriva il colpo d'ala, 31 gennaio 1965, e il Foggia ospita l'Inter di Eleni Herrera, un Inter fresca di titolo di campione d'Europa e del mondo. All'andata aveva vinto 2-0. L'allenatore pugliese sa che i campioni d'Europa e del mondo sono troppo forti per una sfida a viso aperto, imposta una partita di attesa, strettissime marcature a uomo. Va detta una cosa: prima del match Herrera porta la squadra a San Giovanni Rotondo da Padre Pio, che profetizza: in casa nostra non potrete vincere, ma lo scudetto sarà vostro. Per fortuna degli scommettitori, Padre Pio non amava giocare le partite. Così Michele Galdi riassume il primo tempo il giorno dopo dalle pagine della Gazzetta dello Sport. Nel primo tempo il Foggia aveva giocato a velocità folle, sempre primo su tutti i palloni, impegnato in un'offensiva frenetica e ubriacante. L'Inter si era prudenzialmente contratta e, anche se un po' affannata nel contenere gli slanci dell'avversario, col passare dei minuti riusciva a organizzare una discreta barriera difensiva, benché il blocco arretrato non desse l'impressione di quella spavalda sicurezza che aveva una volta. E comincia il secondo tempo. tutti pensano che l'Inter, prese le misure adeguate, avrà la meglio sul Foggia. E invece, dopo poco, Vittorio Lazzotti segna il gol dell'1-0 a Di Vincenzo, che aveva sostituito l'indisponibile Sarti. Sono passati 2 minuti dal fischio dell'arbitro. A Foggia si respira aria di miracolo. Sale in cattedra un centravanti particolare, si chiama Vittorio Nocera, diventerà un eroe sportivo per tutta la città. 257 presenze, 101 gol sempre al Foggia. Attaccante mancino, napoletano di nascita ma foggiano di adozione. Tiro potente e scatto felino. Al nono della ripresa Nocera controlla la palla di tacco, se la porta all'interno e sbilancia due signori che si chiamavano Guarneri e Picchi, che avevano fermato il Real Madrid e tutte le squadre migliori del mondo. Bene, Nocera li salta, parte un diagonale, Foggia 2, Inter 0. Poi l'Inter a questo punto si scuote, al 63esimo accorcia le distanze, corso da Peirò, gol, e al 75esimo l'Inter pareggia, scambio Domenghini, Mazzola, cross dal fondo, respinta del portiere Suarez che la mette nel 7, 2 pari. E i ragazzi di Pugliese sono stanchi, hanno dato tutto, tutti pensano che a questo punto gli ultimi minuti saranno appannaggio dell'Inter, che magari andrà anche a vincere alla faccia di Padre Pio, che le aveva pronosticato una non vittoria. Bene, Maioli da centrocampo scova ancora e il nostro Cosimo Nocera, che entra in area e scocca un tiro che si infila nella porta. 3-2. Dopo il secondo gol di Nocera, Pugliese impazzisce di gioia, entra in campo, viene ammonito dall'arbitro e a fine partita lo commenta così l'episodio. Bisogna essere fatti di roccia per non sentirsi spinti ad abbracciare in campo i miei picciotti. È stato un moto istintivo, umano. E bisogna pure comprendere quel gesto dettato dall'entusiasmo e dalla soddisfazione di vedere la squadra tornare in vantaggio. Contro una magnifica Inter punta nel suo orgoglio, messa alla frusta e sollecitata ad esprimere il meglio di se stessa, i miei ragazzi hanno tirato fuori le unghie, realizzando il loro capolavoro di partita, controllando il gioco in una maniera veramente superlativa e gli avversari con una lucidità e con una prontezza di riflessi esemplari. Insomma, Don Oronzo Pugliese è riuscito dove avevano fallito il Real Madrid, il Benfica e il Liverpool. Il giorno dopo i giornali trovano il soprannome a questo allenatore così particolare, così sanguigno, alla sua prima stagione in Serie A. Oronzo Pugliese diventa per tutti il mago di Turi. Solo un'altra squadra rossonera riuscirà a battere la grande Inter di Eleni Herrera, e sarà il Milan di Lidl. La stagione si conclude esattamente come aveva pronosticato Padre Pio, con l'Inter che vince lo scudetto senza essere riuscita però a battere il Foggia. Il Foggia che arriva nono, a metà classifica, si lascia dietro l'Atalanta di Valcareggi, la Roma dell'argentino Juan Carlos Lorenzo. È proprio il neopresidente giallorosso Franco Evangelista, che peraltro era un deputato CD, un braccio destro di Andreotti, che viene chiamato a risanare la Roma sull'orlo del fallimento, e lui ingaggia Pugliese per guidare la squadra. Pugliese ormai è l'uomo dei miracoli, e anche la Roma, che in quegli anni viene chiamata la Rometta in modo dispregiativo perché aveva degli scarsi successi sportivi, proprio a Roma tutti si attendono qualche lampo da lui. La partenza non è delle migliori, pareggio col vicino, una sconfitta in casa con la Spal, poi una vittoria in trasferta con la Sampdoria. Insomma, altalenante il rendimento, il pubblico rumoreggia e lui, con il suo solito modo colorito, risponde così a fine partita a un giornalista televisivo della Rai. Perché il pubblico la beccava? La beccava, perché che cosa vuole? Perché gli dispiaceva lo 0-0, amico mio. Questa è la situazione. Gli dispiace, sai, gliel'ho detto a lei. Anche sugli altri campi è così. Esce piccolo e vuol mordere il grande brucia. Il falco e il gabbiano. vi sto raccontando la strana storia del grande Oronzo Pugliese, leggendario allenatore di calcio negli anni 50 e soprattutto 60, specializzato nel salvataggio delle squadre di provincia, e vi ho raccontato il suo grande colpo d'ala, quello col quale con il Foggia riesce nell'impresa di battere la grande Inter di Elenio Herrera. Bene, un anno dopo Pugliese è sulla panchina della Roma. 26 settembre 65, quarta giornata. La Roma di Pugliese si trova in casa di fronte all'Inter di Elenio Herrera. Come il Foggia, anche la Roma non è uno squadrone all'altezza dell'Inter, e stiamo parlando sempre della grande Inter: Sarti, Burnic, Facchetti, eccetera, eccetera, con Mazzola, Domenghini, Suarez, Corso. Le difficoltà economiche hanno spinto la presidenza giallorossa a cedere molti giocatori, tra cui il leader che era Picchio De Sisti, che va alla Fiorentina per 300 milioni di lire, che allora erano una cifra da capogiro. Quella domenica all'Olimpico tira una brutta aria, i nerazzurri sono reduci da due vittorie e un pareggio, e la Roma, abbiamo detto, è una Roma dimessa. E infatti l'Inter parte all'attacco, sono tutti protesi in avanti, e ricordiamoci che anche Facchetti, il terzino sinistro, è sempre uomo che ha inventato le propensioni offensive dei difensori, e però l'Inter non riesce a segnare, anzi verso la fine del primo tempo è la Roma che comincia a rendersi pericolosa, a mettere il naso fuori dalla sua metà campo, come si dice. Inizia la ripresa e l'Inter è ancora all'attacco, è furibonda, vuole segnare a tutti i costi. E invece al 17esimo Barison raccoglie un lancio di Benitez, centra, mischia in area, Facchetti e Picchi che hanno un istante di esitazione, Benitez, che è arrivato da metà campo, si getta sul pallone e indirizza a rete. Roma 1, Inter 0. E 10 minuti dopo, mentre l'Inter è tutta nella metà campo avversaria per cercare disperatamente il pareggio, Francesconi conquista un pallone, resiste al contrasto, dà a Barison, Barison avanza e batte Sarti con un tiro preciso a mezza altezza. Gli ultimi minuti vedranno il frenetico, gioioso gesticolare dell'allenatore dei giallorossi. Ancora una volta Pugliese ha castigato la grande Inter di Elenio Herrera. È un finale che Pugliese non si aspettava, tanto è vero che aveva promesso di fare 10 giri di campo in caso di vittoria, cosa che non fa. Ho perso troppo fiato nel gridare dalla panchina. Così Oronzo Pugliese, oltre a essere il mago di Turi, diventa la croce di Elenio Herrera, che secondo Matteo Pugliese applicava un gioco che non era poi così diverso da quello del padre. All'epoca il punto di riferimento non era, come molti pensano, Elenio Herrera, perché Elenio Herrera aveva imparato, appunto gestendo l'Inter in Italia, aveva imparato da Foni inizialmente e poi da Viani e da Rocco il gioco all'italiana, che era quello che all'epoca produceva, ripeto, degli ottimi risultati. E anche quell'anno Herrera perdere contro Pugliese porta bene, perché poi l'Inter vince lo scudetto, la Roma arriva ottava, Pugliese è entrato nei cuori della curva nord. Poi ci sono due stagioni che non vanno meglio: decimo posto nel 66-67 e nel 67-68 ancora a centro classifica, con Pugliese che si toglie lo sfizio di lanciare un giovane centrocampista che arriva da Gorizia, appena 21 anni, e che farà una brillantissima carriera non solo da calciatore. Il giovane centrocampista di Gorizia si chiama Fabio Capello, e una volta Nenè racconta così un aneddoto avvenuto durante una partita quando con il suo Cagliari era in trasferta a Roma. Un giorno a Roma scatto sulla fascia e vado via veloce. Il loro allenatore Oronzo Pugliese si mette a correre al mio fianco lungo la linea urlando: a me, passala a me. La scena è molto divertente, la gente dell'Olimpico applaude, è stato bellissimo. Ma io non mi sono fatto incantare. Ho passato il pallone a Riva e lui ha fatto un gran gol, come sempre. è molto particolare il rapporto di Pugliese con gli stranieri, è un rapporto che in un'intervista lui riassume così. Pugliese, per rinforzare la sua squadra, userebbe stranieri? Gli stranieri per me sono un pochino difficili, non ci comprendiamo noi italiani, figuriamoci se riusciamo a comprenderci, perché lo straniero lo sa cosa fa, quando la cosa gli garba io avere capito, quando la cosa non gli garba lo sa cosa dice, ma siamo io non avere capito, pregare e spiegare ancora, e non lo capisce mai perché non gli suona. Poi arrivano gli anni 70 e inizia la parabola discendente di Pugliese, che dopo un anno passato quasi fermo è direttore tecnico del Bologna, torna nella sua Puglia e sulla panchina del Bari, la stagione del 69-70. Lui ha le idee chiare su come strutturare il Bari, ma il presidente De Palo compra giocatori meno costosi di quelli che vorrebbe il nuovo tecnico. C'è solo una eccezione, un centrocampista brasiliano del Napoli, Faustinho Yarbas Cané, che Pugliese vuole con insistenza, pur avendo detto che non vede di buon occhio gli stranieri. Manca il centrocampo, alla prima gara ufficiale il Bari perde 7-0 a Firenze, quando arriva la prima di campionato le premesse non sono buone. Il Bari ospita la Roma, però la Roma ha sulla panchina Elenio Herrera. Racconta così l'Unità quella giornata. Don Oronzo ce l'ha fatta. Lui, il mago casereccio, genuino, blasfemo e forsennato, con i suoi balletti attorno alla panchina. Ora svolazza per il campo piroettando come una soubrette e raccoglie pioggia di applausi e mortaretti. L'altro, il fascinoso, esotico usurpatore, Elenio Herrera, è già negli spogliatoi, rischiando di travolgere i fotografi impietosi e lanciando torve occhiate al cielo per invocare il fulmine vendicatore. L'ira di Herrera è grande e apocalittica, ma c'è da scommettere che sta già pensando su chi scaricare le colpe della sconfitta. Non ha che da scegliere. La Roma, infatti, è andata a KO ben più pesantemente di quanto non dica il punteggio. 1-0 per i Galletti e per giunta su rigore. Un penalty, tanto per chiarire, indiscutibile. Dopodiché basta aggiungere una traversa per il Bari, 3 o 4 gol falliti dagli avanti e altrettanti salvati da Ginulfi e il quadro è completo. Eh sì, per la terza volta Oronzo Pugliese batte il mago Elenio Herrera. È forse l'ultimo lampo della carriera di Pugliese. Questa giornata per lui sarà una delle più belle della sua vita. Il 10 marzo del 70 lui si deve dimettere, il Bari al penultimo posto e il calcio sta cambiando, è arrivato l'Ajax di Cruyff, l'Olanda del calcio totale, il gioco all'italiana diventa un po' antiquato, ci sono solo sprazzi per Pugliese. Nel 70-71 subentra all'esonerato Bruno Pesaula sulla panchina della Fiorentina e si salva all'ultima giornata pareggiando a Torino con la Juve, mentre il Foggia perde a Varese, il suo Foggia che retrocede per salvare lui. E poi lui che non viene riconfermato torna nel campionato 71-72, subentra a Edmondo Fabbri alla guida del Bologna, termina undicesimo, se ne va ed è l'ultima apparizione in Serie A. Poi c'è un'esperienza con il Crotone nella stagione 77-78, ma i calabresi chiudono il campionato al 19° posto e retrocedono e Oronzo Pugliese capisce che è il momento di lasciare definitivamente il calcio. Gli viene proposto di diventare il commissario tecnico della Grecia, ma lui rifiuta dicendo: mogli, soldi e buoi dei paesi tuoi. Oronzo Pugliese muore a Turi nel 1990. Dal 2008 la sua città organizza in suo onore il premio nazionale per lo sport Oronzo Pugliese. L'ha vinto anche Fabio Capello, che lo ricorda così. Ma è un ricordo bellissimo, guarda, di una vittoria sulla Juventus di 1-0 fuori casa con la Roma. Una vittoria importante, non perché segnavo io, ma per la gioia della Roma, di Oronzo Pugliese, di vincere fuori casa. Di lui rimarranno molti aneddoti, come quello di spiare abitualmente i suoi giocatori in ritiro. Uno di loro una sera lo scoprì disteso a terra e gli chiese cosa stesse facendo. Lui disse: stavo facendo delle flessioni. In realtà stava controllando dalla fessura se la luce delle camere era stata spenta nell'ora giusta. Oppure quando si racconta che prima di ogni partita spargesse il sale attorno alla panchina, chiedendo ai suoi assistenti di spargerne un po' dietro alla porta avversaria per allontanare il malocchio. E qui abbiamo capito da chi ha preso Lino Banfi nel suo tratteggiare il personaggio di Oronzo Canà. Lui diceva, quando gli chiedevano come aveva fatto a battere la psicologia vincente di Herrera, diceva che la psicologia è roba da ricchi, la grinta è roba da poveri. Si racconta anche che una volta, prima di sfidare il Milan a San Siro, avesse detto al suo mediano Ferrari: se a fine partita non trovo sul tavolo dello spogliatoio l'orecchio di Rivera, non ti faccio più giocare. Oppure quando, per caricare i suoi, diceva: 11 gambe abbiamo noi, 11 gambe hanno loro, che poi le gambe sarebbero 22, ma è il concetto che conta. Ma non bisogna ridurre la figura sportiva di Pugliese a questi aspetti, alla sua mimica in panchina. Quando non si limitava a gridare ai giocatori, spesso scattava sulla fascia con loro per galvanizzarli. Beh, ma non è solo questo Pugliese, è molto di più. È stato un tecnico capace di vincere il seminatore d'oro del 64, di condurre il Foggia a compiere quel balzo dalla Serie C alla Serie A che solo Zeman potrà ripetere anni dopo. Non ha vinto competizioni importanti, però si è costruito con fatica l'immagine di uomo dei miracoli, di un uomo semplice, schietto, magari poco acculturato, ma in grado di ottenere credibilità, apprezzamento in tante piazze calcistiche e in grado di far esprimere i suoi giocatori magari con delle prestazioni che non erano neanche nelle corde dei loro giocatori, perché lui i grandi campioni non li ha mai allenati. Ci sono colpi d'ala vissuti nei grandi stadi e ci sono colpi d'ala conquistati palmo a palmo nella vita, quando la grinta, come diceva Oronzo Pugliese, che è roba da poveri, è fondamentale per ottenere dei risultati. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, hanno lasciato un segno. Ecco, Pugliese, nel contesto nel quale si è mosso, ha lasciato ben più di un segno. E se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, oppure venite sul mio Facebook, sul mio Twitter, sui nostri Facebook, Twitter, insomma, lo sapete, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.